I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La notizia che anche la regione belga della Vallonia, dopo giorni di tira e molla, ha dato il via libera all'accordo commerciale tra l'Unione Europea e il Canada, accordo che va sotto il nome di CETA, è sicuramente una buona notizia per almeno due motivi. In primo luogo per l'immagine già appannata dell'Unione Europea, che altrimenti avrebbe dimostrato ancora una volta di essere quasi ingestibile, se una regione che vale come abitanti poco meno del Lazio è in grado di bloccare una decisione presa da tutti gli altri stati che aderiscono all'Unione Europea. In secondo luogo è una buona notizia per l'Italia, noi siamo il primo fornitore agroalimentare del Canada a livello europeo, là esportiamo quasi 750 milioni di euro che salgono a 3 miliardi se si prende il nostro export complessivo. L'accordo CETA riguarderà in primo luogo l'abbattimento dei dazi doganali, aumentando si stima di 12 miliardi gli attuali 86 miliardi di interscambio commerciale con il Canada. Certo, i dubbi esistono e per esempio non si è risolto il tema dei tribunali chiamati ad agire in caso di controversie commerciali. Sbagliato invece dire che questo accordo minerà e ridurrà la sicurezza alimentare in Europa, è uno dei punti su cui l'Europa giustamente non ha ceduto, tutti gli standard europei resteranno in vigore. E allo stesso modo in Canada verranno riconosciute per esempio le denominazioni di origine italiane. Infine un'ultima nota, nulla c'entra il trattato in corso e per ora in stallo tra Unione Europea e Stati Uniti. Il CETA è partito molti anni fa, ci sono voluti quasi 8 anni di trattative, la ratifica di tutti gli stati, ma non è il cavallo di Troia per il famoso TTIP. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Se vi siete accreditati sul sito Fisco Online, il volto web dell'Agenzia delle Entrate, da oggi vi arriveranno gli SMS personalizzati per informarvi che o non risulta recapitata una comunicazione, o per avvertirvi che sono state accreditate somme a voi dovute dall'amministrazione, o ancora che mancano pochi giorni alla scadenza importante di un pagamento fiscale. SMS per il governo sta per Se mi scordo, un acronimo che vuole contribuire a rendere meno feroce la faccia del fisco. Con questo mezzo amichevole, quindi, le entrate puntano a evitare di ricorrere alle famigerate cartelle, sulla base del principio che un fisco più vicino al contribuente, anche nella comunicazione, può far recuperare più di un esattore vissuto come un gabelliere. L'audience cui guardano i tecnici del fisco è soprattutto quella di chi tende a dimenticare o a trascurare le scadenze o ancora a sottovalutarne l'impatto, e non sono pochi. Una volta ricevuto il messaggio, il contribuente deve chiamare il call center dell'Agenzia delle Entrate per ottenere copia del documento oggetto della comunicazione e pagare il dovuto senza sanzioni e senza interessi. Ci sono 30 giorni di tempo. Potrà anche capitare di leggere nei 160 caratteri una frase di questo tipo: l'Agenzia delle Entrate sta erogando il suo rimborso sul conto corrente comunicato, verifichi a breve l'effettivo accredito. Questo sì che è il volto umano delle tasse. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. We'll be right back.